للعيش والتعايش في كومو، مشروع خطوات صغيرة، معلومات مهمة لحياة أفضل وتعايش بإقليم كومو. هذا البرنامج يتكون من 4 حلقات مخصصة للسكن والصحة والعمل وكل ما يتعلق بالنظام الجبائي بإيطاليا، يدعى مباشرة باللغات التالية: التركية، العربية، الإنجليزية والفرنسية. المشروع هو مبادرة من الجمعية شانس بالتعاون مع أرشي إيكو إنفورماسيون أرشي نوروس، ممول بالقانون ليجي 40 الخاص بالعزل المتعلق بالمحافظة اللومباردية. To live and cohabit in Como, short step project, practical information to live together in a better way in Como. The 4 episodes of this program concerning housing, health, work and taxation are available in Italian, Turkish, Arabic, English and French. This project is developed by Cooperativa Chance, realized with the support of Arci Ecoinformazioni and Arci Nirus, financed by Law 40 ASL Lombardia. Vivre et cohabiter à Com. Le projet Petit Pas, information pratique pour vivre mieux et cohabiter ensemble dans la province de Com. Les 4 épisodes de ce programme sont consacrés au logement, la santé, le travail et le fisc. Ils sont d'ailleurs disponibles en italien, turc, arabe, anglais et français. Le projet est une initiative de la coopérative Chance, réalisée en collaboration avec Arci Ecoinformazioni et Arci Nirus et financée par la loi 40 ASL de la région Lombardie. Vivere e convivere a Como. Progetto Piccoli Passi. Informazioni pratiche per vivere meglio e vivere insieme in provincia di Como. Le 4 puntate di questo programma, dedicate alla casa, alla salute, al lavoro e al fisco, sono disponibili in italiano, turco, arabo, inglese, francese. Il progetto è un'iniziativa della cooperativa Chance, realizzata con la collaborazione di Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, finanziamento Legge 40, Azienda Sanitaria Locale, Lombardia. Vivir y convivir en Como. Proyecto Piccoli Passi. Información práctica para vivir mejor y vivir juntos en la provincia de Como. Las 4 puntadas de este programa se dedican a la casa, a la salud, al trabajo y al fisco. Serán disponibles en italiano, turco, árabe, inglés y francés. El proyecto es una iniciativa de la cooperativa Chance y se realiza con la colaboración de Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, financiado con la Ley 40, Hacienda Sanitaria Local, Lombardía. Yaşamak ve yaşayabilmek komoda. Proje küçük adımlarla pratik bilgiler hepimiz beraber yaşayabilmek için Como ilinde. Bu programın 4 bölümü eve adanmış ve sağlık, iş ve vergi. İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngilizce bulabilirsiniz. Bu proje kooperatif şans girişimiyle başlayıp Arci Ecoinformazioni ve Arci Nirus işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Madde 40 Finans AS Lombardia. Ben ritrovati a tutti. Oggi ci ritroviamo a parlare del lavoro. Lavoro in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti. Bene, bene, è un argomento piuttosto ampio. Penso che hai cercato di elencare i problemi più comuni che ci pongono i nostri utenti, vero? Sì, sì, ci ho provato. Poi è ovvio che per informazioni maggiori è sempre meglio rivolgersi ai sindacati competenti. Però ecco qui le informazioni. Bene, bene, adesso raccontaci un po' cosa sei riuscita a fare. Allora, prima cosa su tutte, bisogna capire che per ricercare lavoro ci si deve rivolgere al centro per l'impiego, chiamato anche ufficio di collocamento. Nella provincia di Como le sedi le troverete a Cantù, a Como stessa, a Erba, a Mariano, a Menaggio e ad Appiano Gentile. Se volete sapere l'indirizzo esatto in cui si trovano, andate a consultare il sito della provincia di Como. Oltre al centro per l'impiego, ci si può rivolgere per trovare un lavoro anche alle agenzie per il lavoro. La loro assistenza e il loro servizio non deve essere oneroso per i lavoratori. Il centro per l'impiego ritorna nella vita di un lavoratore anche al momento dell'assunzione. Infatti, il datore di lavoro, in qualsiasi tipo di contratto venga fatto, deve dare una comunicazione al centro per l'impiego dell'assunzione del lavoratore. In più, il datore di lavoro deve produrre un contratto di soggiorno, che è un documento costituito circa da 3 pagine che deve compilare per intero, indicando la mansione, il tipo di contratto che viene applicato e anche dando delle informazioni in merito all'alloggio del lavoratore, deve essere spedito alla prefettura. Deve essere spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che sono i 2 documenti essenziali per il rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. A proposito di rinnovo del permesso di soggiorno, il centro per l'impiego rilascia l'iscrizione alle liste di disoccupazione qualora una persona sia appunto in attesa di occupazione. Un rinnovo di questo rinnovo del permesso di soggiorno di questo tipo può essere effettuato una sola volta nella vita lavorativa. Se dopo 6 mesi, quindi alla scadenza di questo tipo di permesso di soggiorno, il lavoratore ancora non ha trovato un'occupazione, non potrà procedere al rinnovo. Per quanto riguarda invece il permesso di soggiorno per motivi familiari, il lavoratore in possesso di questo tipo di documento può lavorare e nel momento del rinnovo non è obbligato a produrre il contratto di soggiorno. Può anche chiedere che il suo permesso di soggiorno da motivi familiari venga convertito in lavoro subordinato e lo stesso il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e viceversa, quindi da lavoro autonomo a lavoro subordinato. È importante sapere che in Italia bisogna avere 16 anni per poter iniziare a lavorare. Se però i lavori sono considerati faticosi, pericolosi o insalubri, si devono aspettare i 18 anni. L'ultima ipotesi, permesso di soggiorno per lavoro per studio. Nel caso di questo tipo di permesso di soggiorno è consentito lavorare solo per 20 ore settimanali, non di più. È importante anche sapere che al momento dell'assunzione il datore di lavoro non può discriminare i lavoratori e le lavoratrici in base alla religione, agli handicap, alla razza, all'origine etnica e alle convinzioni personali. Il datore di lavoro non può interrogare o indagare sulle opinioni politiche, religiose o sindacali. Per esempio, è atto discriminatorio invitare una dipendente a cambiare abbigliamento per impedire le molestie dei colleghi. Così come è vietata qualsiasi discriminazione riferita allo stato matrimoniale, di famiglia o gravidanza di una lavoratrice. È nullo qualsiasi accordo che subordini l'occupazione di un lavoratore all'adesione a un sindacato o al cessare l'iscrizione al sindacato prescelto. Nella lettera di assunzione di ciascun lavoratore viene fatto riferimento a un contratto collettivo nazionale di lavoro. Questo contratto indica gli inquadramenti dei lavoratori, il loro stipendio, le ferie a cui hanno diritto, i permessi retribuiti, quanti devono essere i giorni di riposo, gli intervalli, il lavoro notturno, il lavoro straordinario, la malattia, l'infortunio, insomma tutte quelle regole che sono uguali per tutti quelli che operano in uno stesso settore. Poi è bene sapere che oltre a questo tipo di contratto c'è anche un contratto di secondo livello, quindi un contratto aziendale, ovviamente non sempre nelle ditte più grandi. E dopo questo c'è il contratto individuale. I contratti individuali possono essere di diversi tipi. Ci sono i classici contratti a tempo determinato o indeterminato, ma oltre a questi ci sono delle nuove forme. Per esempio il contratto a progetto, i contratti di prestazione occasionale, i voucher, la partita IVA o l'associazione in partecipazione. Per avere maggiori informazioni sul contratto che ci viene proposto, è sempre bene rivolgersi al sindacato di fiducia. È possibile avere anche più di un contratto nello stesso momento, l'importante è che ci sia un periodo di riposo di 11 ore nell'arco della giornata. Dicevamo prima che i classici tipi di contratto sono quello indeterminato e quello determinato. Entrambi e comunque tutti i tipi di contratto devono avere forma scritta. Quello indeterminato in particolare deve avere indicate le mansioni e il livello, mentre invece l'elemento essenziale del contratto a termine è l'indicazione innanzitutto del termine e come seconda cosa la motivazione. Se la motivazione non è valida, il contratto può essere impugnato, cioè si può richiedere che da contratto a termine diventi un contratto a tempo indeterminato. Si possono avere contratti a termine per un massimo di 36 mesi e il numero può essere illimitato, quindi ci possono, per esempio e per assurdo, essere anche 36 contratti. Nei contratti a termine, in particolare in quelli di tipo stagionale, c'è il diritto di precedenza. Ciò significa che un lavoratore che ha lavorato nella stagione precedente almeno per 6 mesi, in quella successiva ha diritto a una precedenza nell'assunzione. Un esempio su tutti è quello del turismo, dove ci sono aziende alberghiere che chiudono per l'attività durante l'inverno e poi riassumono le stesse persone l'anno successivo. Nei contratti a termine, di solito il lavoratore non ha diritto a dimettersi e quindi a recedere dal contratto, anche perché in questo caso il datore di lavoro potrebbe chiedere un risarcimento dei danni. L'unico motivo per cui può decidere di interrompere il contratto il lavoratore, ma anche il datore di lavoro, è la giusta causa. Un altro tipo di contratto è il contratto di somministrazione di lavoro, cioè lavori svolti attraverso un'agenzia per il lavoro, che possono fornire contratti a tempo determinato o anche indeterminato per lavorare presso un'azienda. Visto che è un tipo, una sfaccettatura del contratto a tempo determinato, anche in questo caso è obbligatorio che siano specificati i motivi. Sono contratti con delle clausole particolari a volte, quindi qualora ci si trovasse di fronte a un contratto di questo tipo è bene informarsi presso il proprio sindacato. Il contratto di apprendistato è un altro tipo di contratto, ha carattere formativo e può essere fatto sottoscrivere ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Prevede percorsi di formazione interna o esterna all'azienda. Il piano formativo deve essere individuale e deve indicare l'eventuale qualifica da ottenere. Anche in questo caso, come nel caso precedente, si può recedere solo con giusta causa e per giustificato motivo. La retribuzione prevista è quella indicata nei contratti collettivi nazionali e l'orario è quello normalissimo per gli altri dipendenti con altri tipi di contratto, ma solo nel caso di maggiorenni. Il contratto a chiamata o a lavoro intermittente è un altro tipo di contratto. In questo caso non è garantita la prestazione lavorativa continua, può essere prevista un'indennità di disponibilità e qualora ci sia, per il lavoratore c'è l'obbligo di rispondere alla chiamata dietro il pagamento di un'indennità. Può essere a tempo determinato o indeterminato. È bene anche sapere che in questo tipo di contratto, nella maggior parte dei casi, la malattia non viene riconosciuta. Il lavoro accessorio è un'altra forma di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene pagata attraverso buoni lavoro o voucher e il limite da non superare è di 5.000 euro per ogni committente. Passiamo al lavoro parasubordinato. Per parasubordinato si intendono collaborazioni coordinate e continuative a progetto. In questo caso nel contratto deve essere indicato il progetto da realizzare, che deve essere svolto in maniera autonoma, deve essere indicato il compenso che può essere dato al lavoratore al termine del lavoro da svolgere oppure periodicamente. E il contratto si chiude quando il progetto è stato realizzato. Il lavoratore viene pagato attraverso con la busta paga e sono previsti versamenti contributivi previdenziali, ma nella gestione separata. I contratti di collaborazione occasionale non prevedono l'obbligo di avere un contratto scritto, non sono previsti versamenti contributivi all'INPS, a meno che il reddito annuo della collaborazione sia superiore a 5.000 euro. A volte al lavoratore viene chiesto di aprire una partita IVA. Questo costituisce proprio un tipo di lavoro autonomo. Infatti, al lavoratore viene chiesto di emettere fattura e è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi. È una situazione delicata, quindi mi raccomando di chiedere informazioni maggiori al sindacato di fiducia. L'ultima cosa, l'associazione in partecipazione. Il lavoratore in questo caso viene considerato un prestatore di manodopera. Sono molto diffuse anche le cooperative e i lavoratori impiegati in una cooperativa sono spesso dei soci. Attenzione perché in questo caso il socio dovrebbe partecipare alle decisioni importanti dell'azienda, ma non sempre è così. Quindi, se ci sono dei dubbi, rivolgersi al sindacato. Nel lavoro in cooperativa il lavoratore ha due rapporti, un rapporto societario e un rapporto di lavoro. Quindi significa che deve avere un contratto di lavoro. Il permesso di soggiorno e il lavoro sono strettamente legati. Allora, innanzitutto è bene sapere che quando si entra in Italia con il visto, entro 8 giorni dall'ingresso, si deve dichiarare la propria presenza alla questura. Si va in prefettura nel caso in cui si arrivi in Italia tramite ricongiungimento familiare. Il visto può essere di tipo turistico oppure per ricongiungimento familiare oppure per lavoro. La differenza è che quando si ha il visto turistico è consentito il soggiorno sul territorio italiano per 3 mesi, dopodiché si deve fare il rientro nel proprio paese. La durata del permesso di soggiorno è strettamente legata al tipo di contratto che si possiede. Sono 9 mesi se il rapporto di lavoro è stagionale, 1 anno se il contratto è a tempo determinato, 2 anni se è indeterminato e 2 anni ugualmente per lavoro autonomo. Dopodiché, se si è in Italia in modo regolare da più di 5 anni e si hanno i requisiti, si può fare richiesta del permesso di soggiorno per lunga durata, che ha validità illimitata, però deve essere aggiornato ogni 5 anni. Da dicembre del 2010, per l'ottenimento della ex carta di soggiorno, è necessario superare un test di italiano. Nel rinnovo del permesso di soggiorno si deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per sé e per i propri familiari a carico. Il permesso di soggiorno per lunga durata consente l'accesso a più prestazioni, quali l'assegno sociale, l'invalidità civile, l'assegno di maternità dello Stato e dei comuni, salvo che ci siano disposizioni differenti. Inoltre, può essere revocato nei casi in cui si è acquisito in modo fraudolento e in caso si abbandoni il territorio italiano per una durata superiore ai 12 mesi. Mentre invece se si possiede il classico permesso di soggiorno, non si può lasciare il territorio italiano per più di 6 mesi. Le questure impiegano tanto tempo a rinnovare il permesso di soggiorno, quindi i cittadini si ritrovano a circolare con la ricevuta della posta. Questo documento è valido per lasciare l'Italia e per raggiungere il proprio paese, senza però fare scalo in uno dei paesi della Comunità Europea, uscendo e rientrando dallo stesso posto, quindi dallo stesso aeroporto piuttosto che dallo stesso porto.